Salve a tutti cari amici e benvenuti alla 12ª puntata di Vagabondo in giro per il mondo. Prima puntata dell'anno politico 2017 e ancora siamo un po' in fase di festeggiamenti, siamo un po' a digerire le grandi mangiate che abbiamo fatto in questi giorni e soprattutto la notte dell'ultimo dell'anno. Mi auguro che vi siate divertiti, in qualsiasi modo lo avete passato. Mi auguro che il vostro anno nuovo sia iniziato nel migliore dei modi e soprattutto mi auguro che non siate anche voi i protagonisti di quella che secondo me è la bugia per eccellenza di questo periodo dell'anno. In effetti, qual è questa bugia? È una bugia che va bene per il finale di anno e per l'inizio dell'anno nuovo, perché essendoci le feste, chiaramente pranzi, cene, ritrovi, aperitivi, merende, e bevi e mangia e bevi, e qui tutti poi fanno la corsa in palestra oppure nei parchi per cercare di smaltire un po' le calorie assunte in eccesso. E in effetti questo fanno bene, perché la salute è importante e fare sport in qualsiasi modo lo si faccia fa bene, questo al di là del fatto che si dimagrisca oppure no. Chiaramente, cosa mi è successo? Ho ascoltato la conversazione, per l'appunto in palestra, di una persona con un'altra e lì ho capito che questa è proprio la bugia dell'anno. Cioè, quello lì si vedeva bene che gli stava dicendo una bella bugia, ma tra l'altro poi senza motivo. Praticamente i due erano a fare le loro cose, ognuno le sue, lì nella palestra, e a un certo punto uno se ne esce con la bugia top, cioè sono stato attento, non ho mangiato assolutamente dolci, anzi alle cene mi sono sempre contenuto, ho mangiato pochissimo, qui e là vengo in palestra, ho preso 3 kg in 7 giorni, e beh, allora, allora mi viene un po' da ridere. Qual è la bugia? Ha preso 3 kg è la bugia, che cioè non li ha presi, oppure si è mangiato anche il tavolo e quindi si è ingrassato di 3 kg, anche perché se anche te ti fai un pranzo a Natale, una cena nel mezzo, e come fai a prendere 3 kg? Cioè, dovresti davvero mangiarti un bue tonnato, riempito, farcito, e poi bevi giù. E allora, o non è vero che hai preso i 3 kg e quindi vuoi fare magari lo splendido, perché poi, ne so, la settimana dopo vai dallo stesso e gli dici: oh, 3 kg l'ho bello e persi, cioè, visto che sono bravo a palestra, qui mi diverto e perdo anche 3 kg, come li prendo? Cioè, proprio in un giorno 3 kg li prendo, 3 kg li perdo, cioè, ma perché? Ma perché, dico io, queste bugie clamorose, che però in questo periodo dell'anno probabilmente ci fanno sentire un po' meno in colpa, ci fanno allontanare dalle nostre responsabilità alla fine. Ma che colpa? Cioè, non è una colpa, che problemi ci sono se una persona fa un po' di cene per ritrovi con amici per augurarsi il buon anno, il buon Natale, quello che è, e mangia un po' di più e beve un po' di più, e d'altra parte succede, non c'è mica da fare la scenetta di dire: ah, ma io no, non tocco niente, no, ci mancherebbe altro, anzi no, la vita salutare. E poi quando ti giri ti mangi uno sfilatino pieno di roba, insomma, vabbè. E niente, detto questo piccolo aneddoto per iniziare in allegria il 2017 e la nuova puntata del Vagabondo in giro per il mondo. Un'altra cosa che probabilmente avete fatto, perché più o meno la fanno tutti, cosa è in questo periodo dell'anno? Che ne so, la sera dell'ultimo dell'anno avete mangiato le lenticchie? Avete mangiato l'uva? Avete indossato le mutande rosse? Le famosissime mutande rosse che portano bene? Beh, allora, cari miei, siete dei bei superstiziosi, ebbene sì. E d'altra parte, questa cosa della superstizione io la sto un po' vedendo ultimamente sotto anche altri punti di vista. Vabbè, è chiaro, ci auguriamo che l'anno che sta arrivando, e comunque il giorno dopo giorno, il giorno dopo, per tutti i giorni, sia sempre un bel giorno, ci mancherebbe altro. Però, cari miei, la superstizione può andare anche bene. Torniamo un attimino sulla terra, perché tanto le cose a qualcuno gli andranno male, qualcuno morirà, a qualcuno gli succederanno delle disgrazie in casa o a lui stesso, ma ecco, purtroppo la vita fa il suo corso. Anche se tutto il mondo indossasse le mutande rosse, qualcuno muore lo stesso, quindi c'è da augurarsi di stare un po' tranquilli, un po' sereni, e da questo punto di vista non ci facciamo prendere la mano dalle superstizioni. Una delle superstizioni che mi capita di vedere molto spesso in questi giorni è, ad esempio, quando vai al tabacchino, che ora non so se voi che mi state ascoltando lo sapete, ma probabilmente sì, perché ormai è già un po'. Sui pacchetti di sigarette, sui pacchetti di tabacco hanno iniziato a mettere delle immagini abbastanza forti, alcune immagini abbastanza divertenti, e insomma è molto carino vedere la gente che compra le sigarette e poi gli danno un pacchetto, ne so, con un polmone mezzo marcio, diciamo no, questo, cambiami la foto. E allora si prendono magari quella con un bambino morto e dice: tanto è morto il bambino, che me ne frega a me, e io posso fumare tranquillo le mie sigarette. Molto, e questo mi fa molto ridere. E allora io, come sempre, quando non sono proprio centrato, preciso sull'argomento, mi apro il mio vocabolario e mi prendo la parola, mi sono preso la parola superstizione. E attenzione, dal vocabolario Treccani, il vocabolario online ovviamente del Treccani. Allora, superstizione, sostantivo femminile intanto, insieme di credenze o pratiche rituali dettate da ignoranza, frutto di errore, convinzioni sorpassate, di atteggiamenti irrazionali, ad esempio la magia, è stata ed è ancora considerata in diverse culture un mezzo fondamentale per capire e modificare la realtà. Allora, cosa vuol dire questo, amici miei? Cosa vuol dire? Vuol dire che usano la superstizione per impaurirci, per farci fare delle cose che altrimenti non faremmo. E ad esempio, quindi ci sarà chi non si mette a tavola in 13, ci sarà chi si butta il sale dietro le spalle quando cade l'olio, ci sarà chi si bagna il collo con il vino quando si rovescia il bicchiere, e via discorrendo. Ma per la fortuna, ma fortuna di che? E questa cosa a me mi fa molto molto ridere. E vabbè, allora pensate un attimo, qual è l'organizzazione? Ora io non vi farò assolutamente questo, non ve lo dico, però vi porto a pensarci, poi farete voi. Allora, qual è l'organizzazione mondiale, planetaria, che opera in tutto il mondo? Non tutti ne fanno parte, ma insomma opera in tutto il mondo, che ha usato la superstizione chiaramente per come sistema di controllo delle masse, dei popoli, alla fine ignoranti, perché chiaramente adesso siamo un attimino meno ignoranti, però ancora insomma siamo messi malino, Allora, pensateci un attimo, cioè è molto semplice dal mio punto di vista. Bene, cari amici del Vagabondo, la 12ª puntata finisce qua. Mi auguro che il vostro nuovo anno sia iniziato bene, sia iniziato nel vostro migliore dei modi, come meglio ve lo aspettavate, e che così continui per tutto l'anno. Chiaramente è normale che per tutti non sarà così, magari proprio per me non sarà così, ma questo lo staremo a vedere quando succederà qualcosa. Cari amici del Vagabondo, anche per il 2017 il consiglio rimane lo stesso: siate saggi!